Allora, compagni e compagne, siamo qua questa sera per l'iniziativa promossa dalla sezione di Milano del Partito Comunista dei Lavoratori, e abbiamo invitato una rappresentanza dei giovani palestinesi in Italia. La serata sarà articolata un po' in questo modo: ci sarà una relazione del compagno Franco Grisolia, che è della segreteria nazionale del Partito Comunista dei Lavoratori e nella Lega Internazionale Socialista, dopodiché un intervento dei compagni giovani palestinesi, e poi apriremo il dibattito e gli interventi a chiunque volesse intervenire, e quindi poi si prenoterà. Allora io inizierei subito con la relazione del compagno Franco. Noi abbiamo intitolato questa serata, con al centro Gaza, 2 anni di genocidio sionista, ma dall'altra parte 2 anni di resistenza non solo palestinese, ma anche di una resistenza di supporto mondiale. Quindi il compagno Franco interverrà su Gaza, sul sionismo, sul genocidio e sulla resistenza palestinese, e tutto questo quello che ha innescato, e daranno il loro contributo anche i compagni dei giovani palestinesi. Vai Franco. Benissimo, preciso subito che la verità è rivoluzionaria, e quindi qui non è un comizio, un qualcosa del genere, in cui naturalmente è logico sottolineare, non dico gli elementi di unità, perché chi ha sentito i nostri interventi in questi giorni nelle manifestazioni, abbiamo sempre detto, per dire che non siamo d'accordo con la linea di Hamas, però insomma sottolineare gli elementi di movimento. Qui la nostra riflessione vuole essere più una riflessione critica, quindi probabilmente ci sarà chi sarà d'accordo e ci sarà chi invece non si troverà d'accordo, e naturalmente i dibattiti servono per questo. Allora, io sarò molto breve sulla questione storica del sionismo e delle posizioni del movimento trotskista internazionale e in Medio Oriente, in particolare in Palestina, perché molti di voi le conoscono, anche per aver visto i volantini che abbiamo variamente dato. Ad ogni modo, qui non ne ho fatti molti, una quindicina di volantini che sono contengono il testo del nostro primo volantino dopo il 7 ottobre, e che contengono un po' le posizioni generali, storiche e presenti del nostro movimento internazionale, per cui chi non conosca quello, a parte poter porre anche questioni, lo vedrà. Quindi io dico molto brevemente: il movimento comunista è sempre stato contro il sionismo, anche il sionismo di estrema sinistra, quella, per chi conosce, rappresentato da Borokov, che poi fu una persona di cui non si può sapere come si sarebbe evoluto nelle posizioni, perché una cosa stai riprendendo, perché non sarebbe male riprendere non solo me, tutta la riunione, se si riesce, magari a turno. È morto combattendo i controrivoluzionari in Ucraina, però nel dicembre 1917, quindi presumibilmente un sostenitore della rivoluzione bolscevica, come del resto una parte dei sionisti di estrema sinistra, a cui però negli anni successivi l'internazionale comunista costituita pose l'out-out, o sionisti o comunisti. Una parte accettò di abbandonare il sionismo, l'altra no, e quindi fu fuori dall'Internazionale Comunista. Perché sempre il movimento comunista ha visto il progetto e l'azione dei sionisti come un progetto e un'azione coloniale in combutta con l'imperialismo britannico, almeno dopo il 1918, ma anche prima, e quindi un avversario di tutte le concezioni del socialismo internazionale e internazionalista, e che partiva come sionisti borghesi. Tra l'altro ricordiamoci che la sinistra sionista nel senso più largo era maggioritaria nel movimento sionista a partire almeno dagli anni 20, ecco, diciamo, con la falsa slogan un popolo senza terra, una terra senza popolo per un popolo senza terra. Il problema è che lì il popolo c'era in quella terra e quindi era chiaramente una oppressione di tipo coloniale, da intendersi, perché il colonialismo è molto diverso, non il colonialismo di sfruttamento tipo l'Inghilterra in India o l'Olanda nelle Indie, cosiddette Indie olandesi, l'Indonesia di oggi, ma un colonialismo stanziale, cioè che mirava a porre un popolo a un posto degli altri. Per fare un esempio, quello degli Stati Uniti o anche nel Canada, diciamo, rispetto alle popolazioni indiane lì presenti. Poi ce ne sono state un po' a metà, come quello spagnolo che cercava di amalgamare anche in parte, malgrado i massacri e le morti per malattie, cercava di amalgamare una parte della popolazione indigena. Però questo invece era un colonialismo mirante a cacciare, come per gli indiani americani o per le rosse, i nativi americani, per dire giustamente oggi il termine, dalle loro terre, e installare gente che veniva da tutto il mondo, in particolare dal territorio russo, polacco e via dicendo. Ora, questa posizione comunista, che tra l'altro si contrapponeva non al popolo ebraico, perché la maggioranza del popolo ebraico in Polonia, nell'est europeo e Russia non era sionista, anzi in generale era piuttosto asionista o antisionista, voleva vivere in pace e fraternità e in socialismo se possibile nel loro proprio paese, e quindi contrastava il sionismo, che era un movimento di minoranza ampia politicamente, ma minoranza. Lo stalinismo ha rovesciato questa posizione negli anni 40, diventando stupidamente filo-sionista, con l'illusione del grande duce stalinista, che come pensava prima che Hitler non avrebbe attaccato l'Unione Sovietica, pensava che siccome gli inglesi avevano cambiato casacca per paura di perdere il petrolio degli arabi e siccome i sionisti si dicevano socialisti, bisognava appoggiarli, e quindi sostenne la nascita di Israele e lo armò pesantemente. Senza lo stalinismo Israele probabilmente non sarebbe mai nato. Del resto non lo dico io, l'ha detto Golda Meir, che era una delle cappe dei movimento sionista. La Quarta Internazionale Trotskista, in effetti, dopo la scomparsa di quello che era il Bund, il Partito Socialista di Sinistra, Lega di Lotta degli Operai, dei Lavoratori Ebraici, che era in Polonia e Russia, dopo la sua scomparsa a causa del genocidio nazista e anche dell'eliminazione dei suoi quadri che si erano rifugiati in Russia da parte di Stalin, proprio per la sua svolta filo-sionista. Allora, in questa situazione la Quarta Nazionale rimase l'unica organizzazione del movimento operaio mondiale contraria alla nascita dello Stato di Israele e sempre, almeno nelle sue componenti coerenti, a favore della sua distruzione, perché uno Stato coloniale non ha diritto di esistere. Se no, non è. Naturalmente, distruzione di uno Stato non vuol dire cacciato, tantomeno genocidio della popolazione anche coloniale che c'è, soprattutto quando c'è da un certo periodo di tempo, ma vuol dire distruzione di questo Stato, vuol dire che non è possibile conciliare una prospettiva dei rivoluzionari con l'esistenza di uno Stato coloniale. Allora veniamo oggi. Allora, cos'è stato il 7 ottobre e il suo significato? E qui comincia a dire delle cose che sono un po' particolari, anche se secondo noi sono evidenti. Allora, noi riconosciamo nella iniziativa del 7 ottobre una legittima iniziativa di resistenza. Questo non vuol dire che approviamo ogni singolo atto, però se uno si guarda, guardate, basta andare a vedere la rivoluzione americana, quello che succedeva soprattutto nelle campagne dove si dividevano, perché non erano mica tutti rivoluzionari, c'era un pezzo che voleva restare con il re d'Inghilterra. Naturalmente cominciavano a fare i massacri normalmente i più reazionari, ma poi i patrioti americani, cioè, non salvavano mica i familiari di quelli che li avevano colpiti. Ecco. Del resto, persino il segretario dell'ONU, vecchio socialdemocratico portoghese, ha parlato di retaliation, retribuzione, insomma, in un certo senso, di 50 anni di massacri e via dicendo. Per questo noi diciamo che riconosciamo legittimità. Non vuol dire che noi riconosciamo legittimità, ma vuol dire che noi avremmo fatto lo stesso. Diciamo così, se ci fosse stato un piccolo gruppo trotskista a Gaza, purtroppo non c'era, i nostri compagni lì, come ho detto molte volte, sono abbastanza importanti in Libano, ma non in Palestina, avrebbe partecipato al 7 ottobre. Certo, cercando di non ammazzare uno che era andato solo a ballare, ma non è questo il punto centrale, perché sennò dimentichiamo la grande paura della rivoluzione francese, dimentichiamo i contadini russi che quando non c'erano ancora arrivati i quadri bolscevichi che li limitavano, sgozzavano tutti, violentavano purtroppo le figlie dei padroni e via dicendo, e allora la rivoluzione pura non esisterà mai. Che non vuol dire che noi approviamo queste cose, però li riconduciamo all'interno di una questione più generale. La questione più generale è che era un legittimo atto di resistenza. Però qui viene il punto: qual era il programma di Hamas? Perché uno fa una cosa, dice, normalmente o un pazzo o ha uno scopo. E allora qui cominciano le differenze vere. Noi non pensiamo che Hamas abbia nel suo programma reale, nell'empireo tutti vorrebbero diventare padroni di tutta l'Arabia e via dicendo, non solo anche i sionisti, gli americani, eccetera, ma come programma concreto non ha la distruzione dello Stato di Israele. Hamas è un'organizzazione che è stata fondata con dei finanziamenti, anche, non solo, con dei finanziamenti dei sionisti. Come contrappeso, stupidamente forse dai sionisti, un po' li hanno giocati, alla OLP, che benché stesse diventando sempre più moderata, però divide e timpera, questo era lo scopo. Quindi i sionisti hanno finanziato Hamas, ma non all'inizio, fino al 2022, perché in Parlamento, devo dire che chi ha visto Crozza, gliel'ha fatto vedere Crozza, forse qualche centinaio di migliaia, non so che pubblico già, Lieberman, che è un destro, ha detto, tu, Netanyahu ha detto, hai mandato il tuo assistente, non mi ricordo come si chiama, nel 2022 al Qatar, dicendo ai qatarioti che dovevano dare più soldi ad Hamas per gestire Gaza. Quindi ricordiamo, noi siamo rivoluzionari, mi permettete una battuta un po' volgare, tutti gli altri fanno schifo, tutti. E quindi perché c'è stato questo offensivo? Perché Hamas, qual era lo scopo vero? Hamas voleva diventare la forza dominante di un mini stato palestinese, e sapeva che aveva la possibilità di vincere le elezioni, perché l'OLP, cioè meglio l'ANP, non vuole fare le elezioni, perché sa che vince Hamas, i sondaggi davano 54, insomma evidentemente questo. A questo punto, cosa è successo? Che dopo 16 anni di non aver fatto le elezioni, il buon, come si chiama, adesso c'è un momento di amnesia, il presidente dell'autorità, Abu Mazen, presidente dell'autorità nazionale palestinese, ha detto nel 2021, dopo 16 anni, 15 anni che non le faceva, adesso possiamo fare, l'ha detto così. Israele a seguito ha detto no, non si fanno. Perché lo scopo di Israele è quello di tenere di via. A Israele andava benissimo che Hamas governasse Gaza e l'ANP governasse pezzettini di Cisgiordania, che tra l'altro per i sionisti la loro espansione è molto più importante la Cisgiordania di Gaza. Il problema è che a questo punto Hamas, dopo i massacri eccetera eccetera, ha deciso di fare un'operazione, perché sennò sarebbero dei pazzi se non avevano un obiettivo, di pressione estrema su Israele, pensando che questa avrebbe potuto portare una risposta positiva ai loro obiettivi veri. Naturalmente era un po' giocata come il giocatore di poker. Sono 45 anni che non gioco a poker, ma ad ogni modo il giocatore di poker che ha una coppia di re e si butta a rilanciare sapendo che gli altri hanno senz'altro meglio di lui, ma sperando che si ritiri. Non è andata così, quindi è stato un errore da questo punto di vista, ma ciò non toglie che oggettivamente ha rappresentato un momento di resistenza. Però se sappiamo benissimo che tutti i compagni che vengono alle manifestazioni di Hamas, islamici, queste cose non le sanno, noi le dobbiamo sapere, perché la realtà è questa. Non si costruisce un'alternativa senza dire la verità rivoluzionaria su Israele. Hamas ha dichiarato, ha espressamente dichiarato, mi pare 7 anni fa, che lei era per la Palestina libera, bla bla bla, dal fiume fino al mare. Non è per minimizzare, non sto scherzando, c'è grande peso anche quando dico questo. Ma ha detto che se Israele dava lo Stato nei confini del 67, lei avrebbe proclamato una tregua eterna. Siccome questi poi sono pure religiosi, tregua eterna. Poi possiamo anche pensare che dopo aver avuto questo... Il problema è che era un'illusione pensare che Israele accettasse non solo in un mini-stato, ma anche in un Bantustan, poi arriverò a quello che ritengo la distinzione, che ci fosse un potere unico, perché vuole dividere. E tra l'altro non era nemmeno detto, soprattutto che Netanyahu accettasse un Bantustan. E qui veniamo alle varie prospettive che si scontrano, diciamo, sul terreno. E le elenco brevemente perché sennò prendo troppo tempo. Lo Stato arabo, senza o con minoranza ebraica. Questa è la nostra posizione con minoranza ebraica, la posizione tradizionale a quadri nazionale. Originariamente la posizione dell'OLP era senza minoranza ebraica alla sua fondazione, non dicendo li ammazziamo, dicendo vengono tutti da qualche parte e rimandiamo indietro. Però oramai l'80% degli ebrei in Palestina sono nati in Palestina, quindi noi non abbiamo mai avuto questo problema. Noi siamo per lo Stato arabo, col cacciare ovviamente, far partire i coloni reazionari, ma accettando una minoranza ebraica con i suoi diritti. Stato binazionale, che è una cosa diversa, perché mette alla parità, tra l'altro poi dico il punto su cui cozza con la realtà, era la vecchia posizione formale dell'estrema sinistra israeliana, meglio ebraica, sionista, però era legata per alla concezione che ci sarebbe potuto essere un massiccio incremento della immigrazione ebraica in Palestina e quindi non erano a favore della divisione, perché dicevano in 10 anni saremo maggioranza e allora si può fare lo Stato binazionale, però binazionale un po' più meno B e un po' più nazionale verso i per cui non è la nostra posizione. Noi diciamo quella è terra araba, c'è una maggioranza araba, poi ci tornerò. C'è due popoli, due stati. E ce ne sono varie interpretazioni, quella dell'ONU del 1947, che tra l'altro sarebbe formalmente ancora in vigore, quando dico riconosciamo la Palestina, teoricamente dovrebbe essere in vigore quella del 47 e in più il ritorno dei profughi, come disse l'ONU nel 48, se ne sbattono tutte le palle, scusate il termine, se ne fregano totalmente, perché i palestinesi è l'ultimo dei loro problemi. Il ministato invece nei confini della linea verde, cioè del 60, del confine del 48-67, tutta la Cisgiordania, Gerusalemme Est e Gaza. Il Bantustan, che è una cosa diversa dal ministato, il Bantustan vuol dire che tu hai, come nel piano Clinton, io adesso per questione di tempo c'ho anche il testo, ci sono usciti da Limes cose molto interessanti con le cartine, che è la cosa più interessante secondo me di Limes, in cui tu hai tre corridoi, ma larghi, tenuti dai coloni, o meglio due, dividendo in tre, e poi tutta la fascia sul Giordano. Questo resterebbe israeliano insieme a Gerusalemme Est, e poi avrete uno Stato sotto controllo. L'estrema sinistra sionista, avrei visto il programma di, vabbè, adesso non mi ricordo il nome del partito, ma quello di riferimento dei giovani di Ashomeratzai, Meretz, dice praticamente questo: sì, va bene, però certo, bisogna poi dargli un pezzo di deserto per compensare, però nei fatti certo il confine deve essere tenuto, ci deve essere una continuità, ci devono essere dei presidi di soldati, deve essere chiaramente senza esercito. Questo è un Bantustan peggiorato. Un bastardo una volta in Sudafrica si è fatto l'esercito, nemmeno questo. Quindi veramente il Bantustan. Infine le riserve indiane, che è altra cosa, cioè quello delle zone A e B della Cisgiordania, che diventerebbero, non uno Stato, perché questo appunto diventa, non so come lo potrebbero chiamare, ma sarebbero 20-30 zone separate, come le riserve indiane, io dico quelle degli Stati Uniti, insomma, ugualmente, di un popolo solo, invece che dei 150 popoli nativi americani, ma fondamentalmente la stessa cosa. Infine l'espulsione totale degli ebrei, scusate, dei palestinesi, e eventualmente il massacro totale. Ovviamente queste due cose, in particolare la seconda, è non tenibile, ecco, diciamo, perché sarebbe tenibile in una situazione tipo la Germania in guerra, no? Per esempio la Germania non ha potuto immediatamente massacrare tutti gli ebrei che c'erano in Germania, perché finché non c'è la guerra non riesce a organizzare una cosa così, fregandosene di tutta i rapporti, l'opinione, i rapporti economici, eccetera, eccetera. Mentre invece l'espulsione sarebbe quello che sarebbe voluto. Ora, i sionisti si dividono su queste opzioni, anche se tutti preferirebbero che non ci fossero più palestinesi, ma in termini politici il più avanzato è stato Edmund Barak, che appunto presentava quasi un ministato che si ruppe sulla questione di Gerusalemme, perché voleva dire: ti do quello, il resto della linea verde, ma non ti do Gerusalemme Est, e ovviamente non c'è il ritorno dei profughi, se non nei territori dello Stato palestinese. Questo fece saltare poi dopo Barak, invece, però sostanzialmente la posizione dei laburisti è dire: gli diamo un Bantustan. Questo nei progetti Allon, progetti Rabin, che erano due o tre zone in Cisgiordania più Gaza collegate a Strada, ma quindi è sotto controllo sostanzialmente. E Bantustan, cioè è lo stato dell'apartheid che fece i Bantustan, no, in Sudafrica. E per quanto riguarda la destra sionista di Netanyahu, invece la prospettiva è le riserve indiane, chiaramente espresse già da Sharon, anche quando fece cacciare i coloni da Gaza, perché già Gaza è uno dei delle riserve. Poi c'è una ventina in Cisgiordania, però il resto a noi. E infine ovviamente l'estrema destra vorrebbe l'espulsione, ma l'espulsione totale è un po' una cosa difficile, perché c'è un problema di popolazione, che è una questione fondamentale anche per le proposte dei rivoluzionari. In Palestina, nel territorio di Palestina oggi esistono, della Palestina storica, 7 milioni di ebrei e 7 milioni di arabi, alla faccia della democrazia. cioè 7 milioni di arabi, di cui solo 1,5 milioni, 2 hanno i diritti di cittadinanza di secondo ordine di Israele, sono dominati da 7 milioni di ebrei. Più noi abbiamo 5 milioni di profughi. Qualcuno dice 7, ma perché conta i profughi interni alla Cisgiordania? Quindi sono 12 milioni di palestinesi e 7 milioni di ebrei, ma già nel territorio sono 7 e 7. Se facessi un'elezione ci sarebbe la metà di eletti dagli arabi palestinesi. Come potrebbero i sionisti accettare una democrazia borghese, per quanto fittizia? In più ci sono 500.000 immigrati asiatici che non a caso fanno venire da altri paesi. L'avete visto, i nepalesi, soprattutto i thailandesi, ma anche lui, cioè ce n'è di tutti. Perché non vogliono avere, non è perché qualcuno dice, vogliono usare gli arabi come forza lavoro a buon mercato. No, non vogliono usare gli arabi. Il sionismo è iniziato sparando anche agli arabi, ma quei proprietari ebrei che assumevano lavoratori arabi, perché appunto non vuole la presenza dei lavoratori arabi. Quindi i Bastustan e le riserve indiane sono peggio del peggio, perché sarebbero gente affamata e senza lavoro, perché a parte una minoranza non verrebbero, poi certo sarebbe una minoranza, chiamati a lavorare in Israele, perché farebbero vedere gli immigrati. In questo caso l'immigrazione è reazionaria, perché è fatta esattamente da parte dei sionisti per impedire agli arabi di lavorare. E poi c'è il problema centrale del ritorno. Come dicevo, ci sono 5 milioni di arabi. Mettiamo anche solo che solo la metà rientrasse, il territorio diventerebbe immediatamente a maggioranza araba, tanto più che in ogni modo se rientrassero gli arabi sarebbe sulla base di un accordo per cui almeno 1 milione di ebrei ritornerebbero, i più reazionari ritornerebbero a New York e nelle varie cose. Rispetto a tutte queste cose, qual è il programma delle varie organizzazioni palestinesi? Al-Fatah con l'ANP ha capitolato all'imperialismo in maniera palese, a differenza di Hamas, e più profondamente. E sostanzialmente sostiene il ministato, ma io credo che sarebbe disposto anche al Bantustan, purché governino loro. Rappresentano una forza borghese, corrotta, pro-imperialista, cosa che non è Hamas, che non è corrotta Hamas. Vabbè, almeno non è un elemento essenziale, secondo me, invece l'ANP, eccetera. Il Fronte Democratico, partito, insieme al Partito Popolare Palestinese, che è l'ex Partito Comunista, oscilla tra una posizione di uno Stato unico democratico, però con cautela, senza violenza, cioè un'utopia bella e tosta, e l'accettazione dice vabbè, va bene anche il ministato, non potendo fare quello che vogliamo. Hamas, l'ho detto, le uniche due organizzazioni che mantenevano la prospettiva dello Stato unico arabo, con o senza, direi più con oramai, una minoranza ebraica, erano il Fronte Popolare e la Jihad Islamica, quindi forse molto distanti, all'estrema destra e all'estrema sinistra. Però hanno firmato una cosa stupida a Pechino a luglio dell'anno scorso, se non vado errato, in cui accettano lo Stato nei termini del 47, i due Stati, i due popoli, sulla base della risoluzione ONU del 47 del ritorno. Ora, siccome noi non siamo avventuristi e siccome sappiamo che Lenin ha fatto anche Brest Litovsk, naturalmente se il vento del deserto portasse una strana malattia nella testa dei sionisti che gli facesse dire ah beh quanto siamo stati cattivi, allora vabbè accettiamo il 47. Naturalmente nei rapporti di forza uno potrebbe anche accettarlo, ma accettarlo tutti oggi, nel momento in cui il sionismo è quello che è una capitolazione politica assurda, inutile, ed è una capitolazione politica ai cinesi, sperando che i cinesi appoggino i palestinesi e li finanzino, cosa che i cinesi non hanno fatto. Quindi il piano di Trump è un piano imperialista e sionista. Al di là delle follie varie di Trump, la sostanza è, Trump dice, vabbè, vediamo, per tenere buoni i rapporti con i paesi arabi, io posso anche dire a Israele se fa le riserve indiane e magari, a condizione che poi ci vadano le industrie americane a ricostruire, anche il Bantustan. Tanto è sotto controllo, anzi, ci mettono le truppe mie a controllare. Quindi questo accordo non è una vittoria, come ha scritto lei, ma è un elemento di tregua inizialmente e poi, se portata avanti, è una sconfitta del 7 ottobre e della lotta. Era necessario, perché qualcuno dice, vabbè, voi parlate, ma lì c'erano 70.000, 80.000 morti. Io non lo so, non credo che noi possiamo fare. Se avessimo i compagni lì, avremmo un giudizio. Ci sono molti elementi. Uno è che certamente, col cavolo che Israele, come sentiva anche almeno per noi, Israele ha perso, perché moralmente, che se ne fregano i capitalisti imperialisti, che gliene frega della morale. Che non vuol dire che le manifestazioni non siano state importanti e l'isolamento psicologico e morale di Israele non conti per una storia futura, non vorrei essere frainteso, ma non è quello il punto fondamentale per dire c'è stata una vittoria. Israele ha una forza massiccia e siccome il tuo obiettivo reale, parlo di Hamas, era quello di fare pressione, quello non ci sei riuscito a realizzarlo, come dicono anche i nostri compagni libanesi, non è farina solo del mio sacco o di noi italiani, per cui è così. Allora, però uno può dire, vabbè, era necessario perché ormai non reggevi. A questo punto tu dici, non è una vittoria. Quando Lenin firmò Bertin Torrent, disse, è un momento di passaggio che ci può essere utile. Anche se poi non fu nei fatti. Disse, siamo obbligati a accettare una sconfitta temporale. Perché era Lenin, ecco. Era un comunista, un bolscevico, ovviamente. Come sapete, ovviamente benissimo. Sulle questioni concrete, io dico una sola cosa, mi fa venire un po' un dubbio. Ed è la questione, a me e qualche altro compagno, ed è la questione che l'esercito israeliano non voleva continuare l'offensiva. Perché l'esercito italiano sono buoni? No. Perché loro sapevano che hanno avuto 1.000 morti, Non sono mai detto, ma hanno avuto 1.000 morti. Certo, non sono gli 80.000 dei palestinesi. 1.000 più i 1.200 prima. Ma 1.000 morti, soldati morti nelle operazioni. Sapevano che se andavano dentro Gaza, non 1.000 ma 10.000 ne avevano, forse con 50.000 altri morti palestinesi, perché lì era veramente la battaglia di Stalingrado, con probabilmente in questo caso i reazionari che vincevano, perché non c'è l'esercito che può venire in soccorso come fu a Stalingrado, ma con migliaia di morti. Io non voglio fare il cinico, non siamo cinici, però le rivoluzioni sappiamo che costano, se no non saremo sostenitori della rivoluzione russa. Ha sbagliato Lenin, non doveva farlo, Lenin, Trotsky e tutti gli altri. Valeva la pena non avere ancora magari qualche decina di migliaia di morti, ma porre un tale peso su Israele da magari poter porre in questo momento una contraddizione reale? Come si tratta? Non lo so, non ho detto di sì o di no, non lo so, se avessi dei compagni lì saprei dare, però non voglio dire che era, non sono nemmeno per dire che era inevitabile, ineludibile firmare quell'accordo. Forse sì, probabilmente sì, ma siccome non c'è un'onestà di obiettivi, in particolare da parte di Hamas, credo che sia giusto riservarsi questa questione. L'importante è dire che non è una vittoria. Noi abbiamo visto, e vado verso le conclusioni, che tutti gli imperialismi sono schierati col sionismo. Putin, le telefonate, brava Netanyahu, Trump meriterebbe il premio Nobel per aver fatto la pace. Io in qualche intervento ho citato la frase di Tacito, bellissima. Hanno fatto un deserto e lo hanno chiamato pace. Vabbè, non so se è vero, se l'ha inventata, era di un re britannico in lotta. Non so se gliel'hanno riferita oppure l'ha fatto per abbellire la sua storia, però è molto bella. Sia vera, o bentrovata, come si dice molto bene. La Cina fa più perché fa più fuori, fa, ma nei fatti, sapete che nelle colonie lavorano molti tecnici cinesi, nelle colonie, non la, tutta Israele è una colonia, ma nelle colonie ultime lavorano. E guardate, la Cina è uno stato totalitario, non è che uno se ne va e dice me ne vo, deve avere il permesso dei dominanti, in questo caso del partito, che è diventato da partito della burocrazia partito del nuovo capitalismo, ti deve dare il permesso. Quindi tutti gli stati, i regimi arabi sono ovviamente dei traditori, salvo, vabbè, gli Houthi, ma è un mezzo regime in lotta per sopravvivere, quelli no, e hanno fatto il possibile per aiutare, sempre senza identificarsi con gli Houthi, che sono una organizzazione islamica. I regimi arabi nuovamente hanno tradito, hanno detto bene, siamo pronti, manderemo magari le truppe per controllare, eccetera, eccetera. In realtà quindi non c'è nessuna soluzione con il sionismo. Il sionismo va battuto, non c'è un compromesso possibile per liberare il popolo palestinese e la Palestina se non battendo il sionismo. E nessuna soluzione possibile in Palestina, questo va detto anche nelle illusioni. Si possono gridare slogan, e io lo faccio perché è giusto, però abbiamo sempre detto nei nostri volantini e nei nostri interventi, anche il buon Renato che è qui vicino con la Palestina rossa, che solo una rivoluzione internazionale, almeno nel mondo arabo, può permettere di battere il sionismo. Perché in Palestina il sionismo è troppo forte, uno può dire la lotta di popolo vince sempre, ma queste sono stupidaggini populiste, noi siamo marxisti. E in fondo la vittoria in Palestina si gioca nelle strade del Cairo, di Baghdad, di Algeri, e questo è stato quello che è mancato, ma non perché credo il popolo arabo non fosse mobilitabile, perché i regimi lì esistenti lo hanno bloccato. Mentre la contraddizione vera, secondo me, è che la mobilitazione che era venuta in altri momenti del popolo arabo con cittadinanza israeliana non c'è stata. E noi non dobbiamo fare fantasia, tutto il popolo è con noi, poi vedi che non è così. Purtroppo, a differenza della seconda intifada, che poi sarebbe in realtà la terza o la quarta, ma diciamo quella che è passata alla storia come la seconda intifada, non c'è stata una mobilitazione significativa del popolo arabo in Israele, nemmeno con le manifestazioni. Manifestazioni veramente antisioniste l'hanno fatto un migliaio di persone, di cui l'80% erano ebrei di estrema sinistra, non sionisti, ebrei di estrema sinistra, con 200-300 palestinesi. Io ci ho visto, qualcuno l'avrà visti, a Gerusalemme, a Tel Aviv, anche da, però è così. Non c'è stato quello che fece 20 morti, una delle manifestazioni 20 anni fa, non mi ricordo se era Haifa o la vecchia San Giovanni d'Acri. E questa volta non c'è stata. E quindi i problemi restano. Però il problema fondamentale è la rivoluzione socialista panarabe orientale. E quindi solo una Palestina socialista potrà essere una Palestina libera. Non è una giornata, noi abbiamo detto anche in vari interventi, non è il Sudafrica, perché il Sudafrica ovviamente non ci piace per la classe operaia quello che è avvenuto in Sudafrica, però nessuno può dire, almeno noi non lo diciamo, cioè si stava meglio prima, perché insomma, siamo un po', sarebbe da settare i pazzi. E quindi perché lì? Perché ci sono le basi sociali. In Sudafrica i lavoratori neri lavoravano nelle fabbriche. È vero che i Boeri 150 anni fa, 200 anni fa, volevano fare la stessa cosa dei sionisti. Ma poi, siccome si è scoperto l'oro e i diamanti, e siccome loro non volevano metterci tutti a scavare nelle miniere, hanno detto, beh vabbè, facciamo l'altro colonialismo. Tra l'altro, insieme alla Gran Bretagna. E quindi questo ha fatto sì che a un certo punto isolati, dividi con meno percentuale di popolazione, i capitalisti bianchi del Sudafrica hanno detto: guarda, piuttosto che perdere profitti e stare sempre sul chi va là, diamo un po' di potere anche ai capitalisti neri, compresi vari ex dirigenti sindacali. Il Landini del Sudafrica, non voglio accusare Sardini, ma il Landini del Sudafrica è diventato ultramiliardario ed è anche adesso, se non sbaglio, il presidente del Sudafrica eletto. Era il capo dei minatori nelle lotte degli anni 80, e manteniamo i profitti, e questo è avvenuto. In Israele non è possibile, perché c'è una struttura sociale che è totalmente diversa, è totalmente colonialista di presenza. E quindi noi cosa lanciamo? Diciamo, come si risolve poi il problema dei rapporti? Noi riprendiamo, e l'abbiamo ripresa dopo averci un po' discusso, pensato, una parola d'ordine della Quarta Internazionale negli anni 40, la Costituente di Palestina. Cioè noi diciamo che se domani si vincesse, anche con la vittoria socialista, i bolscevichi hanno fatto fare l'elezione dell'Assemblea Costituente, poi l'hanno disciolta, ma non c'è una questione di principio. Trotsky difese anche per la Cina di dire: rivendichiamo l'Assemblea Costituente. Una Costituente democratica di Palestina in cui possano votare tutti gli arabi in Palestina, tutti gli arabi palestinesi in esilio e solo quegli ebrei nati in Palestina, che sono poi ormai l'80%. In termini, tenuto conto di tutto, anche quelli che hanno più bambini, e tenuto conto che un po' di sionisti particolarmente reazionari se ne andrebbero, è un'ipotesi di 2/3, 1/3, 8 milioni di elettori potenziali arabi contro 4 milioni di elettori potenziali ebrei, che più o meno del resto le stesse cose che negli anni 40, quando la Quarta Nazionale diceva no alla divisione, facciamo una costituente palestinesi per noi lo Stato deve essere arabo, poi discutano insieme, perché noi non dobbiamo dire tutto, noi siamo per il socialismo e per il potere dei soviet, ma come si rapportano tra loro i popoli? E lo possono decidere liberamente, appunto discutendo su basi democratiche. E quindi questa era veramente la conclusione, però quello che c'è per questo, perché la rivoluzione socialista non avviene da sé, come sperano e pensano qualcuno anche magari che si dice trotskista o leninista, quello che... bisogna costruire il partito l'internazionale, perché se no non ci sarà possibile rivoluzione. Bisogna portare coscienza alla classe operaia, anche un pezzettino, se si riuscisse, di classe operaia ebraica in Israele, ma sicuramente è possibile dopo un successo, per esempio in Iraq, in Egitto, che faccia vedere un socialismo vero, non il socialismo di Nasser, in cui tra l'altro in qualche settore di gioventù ebraica persino quel socialismo bastardo, e mi scusino del termine, che è un brutto termine, aveva una qualche influenza sul ragionamento di una piccola parte della gioventù ebraica in Palestina. Ma un vero socialismo capace di dire: guardate, noi non vogliamo cacciare gli ebrei, a parte i coloni reazionari, noi vogliamo costruire il socialismo con il diritto della maggioranza araba di avere il suo proprio Stato. Per cui concludo con la frase che scrisse nel suo documento la Quarta Internazionale dopo la sconfitta della guerra del 48, cioè, o meglio, la sconfitta della NAFCA, che la guerra del 48 era una guerra, i giordani si erano già messi d'accordo, discutevano su quale pezzo di Palestina prendersi, tant'è vero che mica hanno fatto lo Stato di Palestina, ce la sono pappata come Giordania. Quindi grazie alle direzioni borghesi e feudali dei paesi arabi, agenti dell'imperialismo, siamo stati battuti in una tappa della lotta contro l'imperialismo e dobbiamo prepararci per la vittoria in una prossima fase, cioè per l'unificazione della Palestina e dell'Oriente Arabo in generale, creando la sola forza che possa raggiungere questo obiettivo, il Partito Proletario Rivoluzionario Unificato dell'Oriente Arabo. Io credo che noi, anche a distanza di tanti anni, non abbiamo nulla da aggiungere a questa frase. Vi ringrazio. Allora, Franco ci ha dato molteplici spunti poi per una riflessione ampia, per il dibattito, per gli interventi che spero siano numerosi. Io darei adesso la parola al compagno dei giovani palestinesi che ci darà e dirà il suo contributo e poi apriamo il dibattito e gli interventi a chiunque volesse intervenire. Andrea. Grazie di averci invitato in questo momento di bilancio e prospettive per fare un po' il punto di quella che è la fase storica in cui ci troviamo a livello internazionale e anche poi qua in Italia vorrei riportare il discorso. Non rifarò tutto un escurso storico che ha già iniziato Franco, ricordando che il sionismo è un'ideologia, è un movimento politico coloniale nato in Europa e sostenuto che rientra nel progetto imperialista capitalista occidentale per inserirsi all'interno del mondo arabo, con la collaborazione dei regimi, dei governi arabi collaborazionisti e delle borghesie che sostengono il sionismo per degli interessi economici precisi. La fase in cui ci troviamo è profondamente cambiata col 7 ottobre, perché il 7 ottobre è stato in questo secolo il primo momento in cui la resistenza palestinese è riuscita a penetrare nei territori cosiddetti del 48, quindi che l'entità sionista si è appropriata con la Nakba nel 1948, rompendo quello che era un assedio già in corso a Gaza da 17 anni, dove la popolazione palestinese stava chiusa in una striscia di terra molto piccola e l'entità sionista controllava già gli accessi al cibo, all'acqua, alle risorse, alla pesca, all'agricoltura e limitava il più possibile le risorse. E ha recintato una striscia di Gaza che con il 7 ottobre la resistenza è riuscita a rompere questa recinzione, prendersi i carri armati, prendersi le armi dell'esercito sionista ed entrare nella Palestina del 48, tra l'altro con delle azioni anche in Cisgiordania, quindi non solo a Gaza, ma ci sono state delle azioni contemporanee che hanno coinvolto diverse fazioni della resistenza, ma non tutte. Nonostante ciò, nonostante ci fossero delle parti della resistenza che non erano coinvolte nell'operazione del 7 ottobre, tutta la resistenza si è unita dopo nel supportare un'azione rivoluzionaria che rompeva un assedio e rompeva anche un muro di silenzio e di normalizzazione di quella che era l'occupazione sionista in Palestina, perché la causa palestinese negli anni precedenti sembrava essersi assopita, diciamo, dagli accordi di Oslo che hanno portato avanti appunto un collaborazionismo dell'ANP, instaurando il governo dell'ANP in Cisgiordania, che sappiamo collabora con il sionismo anche arrestando, uccidendo fazioni della resistenza in Cisgiordania e anche normalizzando quella che è l'entità sionista e quei confini nel mondo. Quindi il 7 ottobre è stato un atto rivoluzionario che non si può spiegare con un collaborazionismo con l'entità sionista in nessun modo, in realtà, perché non avrebbe alcun senso pensare di portare avanti un'azione di questo tipo sapendo che ci sarebbero state delle azioni ritorsive pesanti e sapendo anche che il tipo di conflitto che c'è tra un esercito e un'organizzazione essenzialmente di guerriglia, di resistenza che si costruisce dal basso popolarmente ma che non è uno Stato con un esercito, sono delle azioni che comportano delle perdite pesanti per la fazione, per la parte palestinese, e infatti ci sono state, ma questo fa parte di quella che è la guerriglia e fa parte del costo di una rivoluzione, come diceva prima, che non va a intaccare la resistenza stessa. Perché il cuore della resistenza palestinese è che il martirio stesso, che noi parliamo di martirio e non semplicemente di morte, di uccisione, perché è un concetto che viene dall'arabo, che è un po' diverso da quello che si intende col termine, diciamo, cristiano di martirio, ma che vuol dire testimonianza, vuol dire che la morte di un combattente non è una sconfitta, non è una perdita, perché è fatta coerentemente con la lotta di liberazione. E anche il tentativo sionista di colpire i leader della resistenza, che è storicamente la strategia sionista di colpire delle figure importanti, di dirigenziali, anche a livello simbolico conosciute, non va a intaccare l'idea di resistenza, anzi è celebrata dal popolo palestinese come la morte più onorevole possibile. E questo nella lotta di liberazione è fondamentale, perché vuol dire che la lotta continua attraverso le generazioni. E questo è l'insegnamento della resistenza palestinese, che va a ridefinire quelli che sono i termini di vittoria e di sconfitta come in Occidente sono concepiti. Ma la sconfitta è la normalizzazione, la sconfitta per esempio sono gli accordi di Oslo, la sconfitta sono i governi arabi che collaborano con l'entità sionista. La sconfitta non è morire con il fucile in mano, non è morire cercando di liberare la Palestina. E il 7 ottobre ha dato un impulso in tutto il mondo ad un movimento, diciamo, di solidarietà, però bisogna capire cosa si intende con solidarietà, con la lotta palestinese, che si è risvegliato come non succedeva da decenni. Gli anni 70, ricordiamo un momento in Italia di conflittualità politica, sociale alta, in cui anche la lotta per la Palestina era molto presente, tanto che ci sono stati dei rappresentanti della resistenza di allora che sono anche venuti in Italia, accolti dai movimenti rivoluzionari italiani, ma che da decenni non si vedeva un movimento del genere. Un movimento di solidarietà che è importante intendere, ecco, non come una solidarietà simbolica per un popolo oppresso che subisce un genocidio, ma come una solidarietà concreta tra chi qua sceglie di lottare con la bandiera palestinese in supporto alla liberazione palestinese, ma lottando qua contro le strutture oppressive che legano lì, essenzialmente sotto la struttura dell'imperialismo, quella che è l'oppressione capitalista che viviamo qua con l'oppressione coloniale dell'imperialismo in Palestina. E quindi è importante per tutte e tutti noi, sapendo che magari non c'è una consapevolezza sempre comune di cosa vuol dire scendere in piazza per la Palestina, che non è solo appunto un atteggiamento di voler aiutare o salvare il popolo palestinese, ma al contrario deve essere una consapevolezza e una lotta contro l'imperialismo qua dal cuore dell'impero. E questo è il senso che noi cerchiamo di dare a ogni manifestazione, ogni intervento, ogni soprattutto costruzione di un percorso continuativo nel tempo, e che un percorso continuativo che si sta realizzando, che si sta portando avanti, soprattutto nell'ultimo periodo, riconoscendo l'importanza degli scioperi come arma fondamentale contro gli interessi dei padroni. Gli scioperi che abbiamo visto il 22 settembre, il 3 ottobre, e il prossimo, il 28 novembre, ma anche nei mesi precedenti, ultimamente sono diventati frequenti, più frequenti, perché la lotta dei lavoratori in questo è fondamentale. I lavoratori sono quelli che hanno il potere di continuare o bloccare il sistema produttivo, un sistema produttivo che noi dobbiamo essere in grado di collegare con l'oppressione coloniale in Palestina, sapendo che il collegamento più evidente e più concreto è quello della produzione bellica e della logistica. Questo è evidente a tutti. Ovviamente non è l'unico, ci sono tantissimi interessi, ricordo anche gli interessi energetici, per esempio della Eni, ma è tutto un sistema di profitto che deve essere contrastato. Però il fatto che l'Italia supporti l'entità sionista con le armi è il legame più evidente che c'è tra un genocidio in corso, e sappiamo che questo può sensibilizzare molte persone, ma nel farle rendere conto che questo genocidio è prodotto qua a livello concreto, ma anche a livello ideologico, con l'ideologia di suprematismo occidentale, di imperialismo occidentale che cerca di imporsi in Palestina. E la logistica ha una funzione fondamentale, perché la logistica è l'apparato circolatorio del capitalismo internazionale. La logistica è il collegamento effettivo tra le economie, perché fa girare le merci e fa girare in particolare anche le armi. Per cui per noi è fondamentale insistere su questo, per dare questo senso al movimento per la Palestina in Italia. È stato fondamentale per noi il 3 ottobre bloccare l'interporto di Pioltello, che è collegato con i porti di Ravenna, di Genova e di Venezia, ma anche con l'aeroporto di Malpensa, da cui passano le armi prodotte dalla Leonardo sul territorio lombardo verso appunto l'entità sionista. E questo è stato un primo momento, ma che si collega concretamente con le mobilitazioni nei porti, quindi la chiamata dei portuali di Genova, quella di Ravenna, di Livorno, che hanno detto: noi ci rifiutiamo di caricare le navi della ZIM, ci rifiutiamo di caricare le navi della MSC, ci rifiutiamo di caricare le armi, il che dà una forza, dimostra la forza dei lavoratori in questo. Ed è importante che anche a Milano continuiamo a insistere su questo. Malpensa è uno degli snodi fondamentali della logistica bellica italiana. Un altro punto che vorrei portare sulla fase, diciamo che sulle prospettive future che ci si prospettano, l'inizio di tregua che c'è stato, in cui c'è stato un tavolo a cui hanno partecipato diverse fazioni della resistenza, è stato un momento necessario, perché sappiamo che la situazione per la popolazione e per la resistenza a Gaza era molto difficile, con la fame, con i bombardamenti, con l'esercito che è entrato anche nella città di Gaza. Però il fatto che la resistenza si sia seduta a quel tavolo è un riconoscimento del fatto che è l'interlocutore con cui le forze imperialiste devono confrontarsi, ed è la rappresentante del popolo palestinese. La resistenza a Gaza ha anche dimostrato che non ci può essere distinzione tra una resistenza, diciamo, organizzata, istituzionalizzata, come quella di un partito, e il popolo stesso. Cioè, la resistenza attraversa tutto il popolo con il sostegno che il popolo fornisce in diverse forme all'organizzazione, perché non può essere isolata dal suo popolo. E questo è il messaggio fondamentale che dobbiamo ricordarci. E l'altro messaggio fondamentale che ci arriva anche da George Abdallah, che ha dichiarato, dopo essere stato liberato qualche mese fa, dopo 41 anni nelle carceri francesi, è che il Mukawem, il resistente, la persona che ha in braccio le armi e che sacrifica la propria vita per la liberazione della sua terra e del suo popolo, ha l'ultima parola e l'unica parola legittima su ciò che deve o non deve fare la resistenza. Chi ha diritto a stabilire la continuazione della resistenza e chi ha diritto a prendere le decisioni politiche della resistenza è chi sta resistendo in Palestina. Il nostro ruolo da qui, dall'Italia, da altri paesi, è sostenere la resistenza, e questo è ciò che ci dà forza poi nella nostra lotta, di non, che non si riduca a un movimento appunto di solidarietà astratta, sostenere la resistenza nel processo di liberazione, ma il ruolo che abbiamo da qui non è quello di determinare quale sarà il futuro della Palestina. Il futuro della Palestina lo può decidere solo il popolo palestinese. E questo dobbiamo sempre ricordarcelo. Tenendo conto che la liberazione della Palestina, il punto fermo è che è una liberazione completa dal sionismo. Quindi il riconoscimento di uno Stato palestinese che viene proposto dalle forze imperialiste, come anche da una parte della sinistra istituzionale, come una sorta di contentino per dire: vedete, adesso riconosciamo lo Stato di Palestina, inteso come un pezzo di Palestina, come si diceva prima, subordinata al disarmo o allo smantellimento della resistenza, non è una vittoria, non è una cosa che ci interessa, questo dobbiamo dirlo chiaramente, non è una continuazione della resistenza. La resistenza, finché armata, finché è una forza politica in grado di lottare, questa è la continuazione della causa palestinese. E poi la resistenza sceglierà le sue strategie per continuare la lotta. E noi dobbiamo supportarla da qui, lottando contro il sionismo che si trova in casa. Un ultimo punto che voglio fare, ricollegandomi un po' alla telefonata che c'è stata tra Trump e Netanyahu prima dell'inizio del cessate il fuoco, che ricordiamo è stato ripetutamente violato dall'entità sionista a Gaza, ma è stato violato migliaia di volte anche in Libano, e proprio in queste ore c'è stata un'intensificazione degli attacchi in Libano e c'è stata un'intensificazione negli ultimi giorni anche del progetto della violenza coloniale in Cisgiordania, per cui un cessate il fuoco non vuol dire la fine di un genocidio, non vuol dire la fine dell'espansionismo sionista, perché l'espansionismo sionista continuerà sempre finché c'è il sionismo. Comunque, per ritornare, la telefonata che c'è stata tra Trump e Netanyahu, Trump ha detto a Netanyahu non può rimanere Israele da solo contro tutti. E questo è il tentativo che sia la destra trumpiana che una parte della sinistra istituzionale cerca di fare nel salvare in qualche modo un sionismo che adesso è stato smascherato di fronte al mondo e che adesso si trova in difficoltà proprio per questo, proprio perché su ogni fronte viene attaccato, sul fronte appunto del supporto materiale concreto da parte degli altri stati, sul fronte della sua legittimità. Ma ricordiamo anche l'importanza della mobilitazione nelle università, nelle scuole. Anche in Italia abbiamo visto moltissime anche scuole superiori che si sono attivate, che hanno occupato università, che sono state occupate dal movimento delle accampate dell'anno scorso fino anche a continue mobilitazioni in università che chiedono la rottura di ogni forma del sionismo. Insomma, il sionismo è attaccato da ogni fronte e nel momento in cui rimane isolato è debole. Per cui c'è un tentativo di salvare il sionismo con una proposta di accordi di pace, tra virgolette, che sappiamo che di pace non si tratta, e un tentativo di distinguere un sionismo buono, di un sionismo cattivo, quello di una destra estrema di Netanyahu, invece un sionismo più buono di quelli che manifestano a Tel Aviv per la fine del genocidio. Ma sappiamo che questo non è possibile, proprio per la natura stessa del sionismo. E quindi il tentativo di salvare la faccia del sionismo è quello che noi dobbiamo continuare a contrastare nella continuazione della nostra lotta. E sappiamo che appunto gli attacchi che arrivano dal sionismo da ogni fronte a livello internazionale, che sono stati in grado di legare le lotte a livello internazionale. Ricordo anche, per esempio, il contrattacco nei confronti dell'ICE, la forza poliziesca di deportazione negli Stati Uniti, da parte di soprattutto della popolazione sudamericana e non solo, di fronte ai tentativi di deportazione di massa, che portavano la bandiera della Palestina e portavano i simboli della resistenza palestinese, perché riconoscevano sia in questi simboli come un orizzonte di liberazione globale, anche propria, ma non solo a livello simbolico, ma riconoscevano che stavano lottando contro un nemico comune. E questo sta creando un problema all'imperialismo globale, all'imperialismo capitalista in particolare, l'imperialismo che sostiene il sionismo. E lo vediamo in Italia anche con la repressione. Ecco, questo poi mi concludo con quest'ultimo punto, perché dobbiamo renderci conto che c'è stata un'intensificazione della repressione a diverse fasi, l'abbiamo visto in tante piazze, ricordiamo il 27 gennaio dell'anno scorso, il giorno appunto della memoria in cui c'è stato un divieto del corteo, e c'è stato un tentativo di chiudere una piazza. È stato un primo inizio, ma che è continuato in varie fasi. Il 4 ottobre l'anno scorso a Roma, quando siamo scesi in piazza, e la città è stata militarizzata dal Ministero dell'Interno, e fogli di via, perquisizioni, autobus fermati, l'arresto di Tarek, che si trova tuttora in carcere. Ma è continuata sempre di più. Il 12 aprile è entrato in vigore il DDL cosiddetto sicurezza, che dà degli strumenti ulteriori alla repressione alle forze poliziesche, anche nei confronti proprio degli scioperi e dei picchetti, i blocchi stradali, i blocchi ferroviari, i blocchi dei porti, e non è un caso che ci sia stato una... Chi volesse intervenire è pregato di venire a fare l'intervento qua, perché loro stanno registrando. Allora, da questo momento sono ufficialmente aperti gli interventi e i contributi tutte delle compagne e dei compagni. Anche domande? Domande, sì, certo. Quella. Li abbiamo ammazzato. La concorso di colpa con il compagno tra tutte e due. Vuole rompere il ghiaccio. Vincenzo, oh, vieni, Vincenzo qua. Vieni qua. No, qua. Qua Vincenzo, devono registrare. Sì, giusto un piccolo spunto, anzi uno spuntino, consentitemi la battuta. Allora, giustamente Franco prima riportava l'aspetto che nei vari paesi arabi c'è stata una quasi totale assenza di mobilitazioni per la Palestina, con una però felice eccezione, mi verrebbe da dire, quella del Marocco, dove ci sono state e ci sono ancora delle importantissime mobilitazioni, soprattutto da parte dei ragazzi nati tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, la cosiddetta Gen Z, che stanno comunque mettendo in discussione proprio tutto l'assetto politico del Marocco. Mi viene da dire, il Marocco, non a caso, all'interno dell'Africa, dei paesi africani, si pone come interlocutore privilegiato di Israele. Si pone come interlocutore privilegiato di Israele anche grazie al beneplacito di Trump per il controllo dei fosfati. E quindi una caratterizzazione del Marocco come potenza regionale. E mi veniva da intervenire anche su questo punto, anche per un semplice motivo. Oggi sono 50 anni precisi dall'occupazione marocchina, sia in termini di coloni, sia in termini militari, del cosiddetto Sahara occidentale, nel quale ci sono comunque delle forme di occupazione estremamente simili a quelle, appunto, che penso ad esempio anche a quel muro che attraversa il Sahara occidentale tra la parte occupata dagli spagnoli, dal Marocco, e la parte lasciata anche lì all'autogoverno dei Sahrawi, e anche lì il microstato, tra parentesi, confinati nel deserto. Non a caso il più grande centro Sahrawi oramai è Tindouf in Algeria, un po' come era un tempo Yarmouk in Siria, prima che venisse completamente distrutta dalla guerra civile e dalle truppe del regime di Assad. Mi viene da dire questo, mi viene da pensare questo anche per la questione dei Sahrawi, connessa alla questione palestinese, anche perché sono due regimi che opprimono delle nazioni oppresse, e ci fa capire quanto, mai come adesso, è fondamentale lanciare, come Lenin lanciò durante la Prima Guerra Mondiale, la consegna degli Stati Uniti Socialisti d'Europa, adesso la bandiera di un mondo arabo unito. Mo ci vuole dalle coste dell'Atlantico alle coste del Golfo Persico, dal Marocco Sahara Occidentale fino all'Iraq. E come non pensare anche a un paese che abbiamo di fronte, nel quale il nostro imperialismo ha un ruolo da leone. Sto parlando ovviamente della Libia, anche come non pensare oggi alla Libia, visto quello che è successo ieri con l'arresto di Al-Masri, protetto fino all'ultimo dal nostro imperialismo, anche in funzione del controllo antimigranti, diciamocelo chiaramente. Dinanzi a tutto quello che sta, anche rispetto alla Libia, che come compagni, come internazionalisti dovremmo affrontare prima o poi, perché principale paese cannibalizzato, tra i principali paesi cannibalizzati dal nostro imperialismo dal 1912 esattamente. Per questo, vabbè, definitivamente però dal 12. Per questo anche a maggior ragione che ci troviamo in questa ricorrenza storica di questo cinquantennio, il popolo palestinese come faro anche nella liberazione di tutti questi altri popoli, anche delle popolazioni libiche, che comunque costituiscono un mosaico di popolazioni, del popolo come guida, come anche come faro, come fonte di ispirazione per la gioventù marocchina e anche per il popolo sahrawi, che comunque si trova a combattere anch'esso una battaglia nel deserto e che comunque si trova adesso a essere ostaggio di quello che è il principale sponsor di Israele all'interno appunto del contesto africano, tanto che sono oramai decenni che il Marocco è stato espulso dall'Organizzazione dell'Unità Africana, dall'OUA. Niente, giusto qualche piccolo spunto che, giusto per fare anche compagni e compagni una connessione su quanto appunto la Palestina anche geograficamente si trovi al centro, diciamo, di uno scenario di ipotetici percorsi, ma anche reali percorsi di liberazione. Come non pensare qualche centinaio di chilometri più a nord ai curdi, e come non pensare anche a quello che sta succedendo anche in Siria, anche nello scenario siriano, come non pensare ad esempio a Suaida, dove ad esempio stanno avvenendo combattimenti tra il governo di Damasco e i drusi, e sia chiaro, i drusi siriani sono ben altra cosa rispetto ai drusi israeliani, che sono dei, consentitemi, dei veri e propri ascari, dei veri e propri archis, dei veri e propri collaborazionisti, i drusi israeliani, mentre i drusi siriani non hanno sempre mantenuto, diciamo, un'indipendenza da Israele, anzi in passato hanno sostenuto anche abbastanza il regime di Assad. Quindi per questo, anche a maggior ragione che il mondo arabo è un coacervo anche di minoranze, per questo un mondo arabo unito, laico e socialista è mai come adesso un'unica soluzione di liberazione, consentitemi questa rima, anche a maggior ragione per luoghi come la Libia. E per questo, diciamo, da internazionalisti in primis denunciare il ruolo del nostro imperialismo, non solo nella complicità verso al genocidio di Israele, che sta mettendo in atto ancora adesso l'entità sionista, ma anche per tutto quello che sta succedendo ai danni del popolo libico e ai danni anche delle centinaia di migliaia di immigrati che vivono in molti casi in veri e propri campi di concentramento al di là del Mediterraneo. Ho finito, grazie. Ti ringrazio per questo spunto, perché in realtà era un punto anche che volevo toccare, quello sul Marocco, parlando un po' dei legami che il sionismo ha al di fuori della Palestina e della regione circostante, perché il sionismo è un progetto progetto espansionista che punta in diverse forme a infiltrarsi in tutto il mondo arabo, dove la questione del Marocco mostra, insomma, in modo evidente come la cosiddetta indipendenza che certi stati, certi stati hanno ottenuto dalle colonie europee non è una reale indipendenza dal momento in cui continuano i rapporti coloniali sotto altre forme. E in Marocco vediamo un governo sostenuto da una borghesia locale che ha dei precisi interessi a mantenere gli accordi economici con l'Europa, con l'entità sionista, con gli Stati Uniti, con, insomma, col sistema capitalista, ma anche dei precisi interessi politici, per esempio rispetto alla questione dei Sahrawi. E anche, insomma, uno delle tecniche coloniali è stata proprio la definizione dei confini, che anche dopo la fine dell'indipendenza formale, insomma, la fine delle colonie ufficiali, lo stabilimento dei confini è stato progettato ad arte per mantenere una divisione tra i popoli secondo il modello occidentale, secondo un'idea di Stato-nazione, secondo un cercando di far leva su degli scontri locali per mantenere l'egemonia di un potere capitalista supportato dal collaborazionismo. E in Marocco la repressione anche è stata molto alta, anche prima delle ultime proteste, quando già nei porti marocchini c'è stata molta mobilitazione per fermare le navi, appunto, della Maersk, le navi che attraccavano a Tangeri, per esempio, a Casablanca, verso l'entità sionista. E anche lì, appunto, la lotta dei portuali, dei lavoratori, nonostante la brutale repressione del regime, ha mostrato quello che di fatto è l'evidenza che degli interessi di un governo da una parte, degli interessi e della volontà di un popolo di liberarsi dai legami coloniali, e che Marocco nella lotta, ecco il popolo, diciamo, tutti i sondaggi, tutte le indagini che sono state fatte su, per esempio, in Nord Africa, dicono che la stragrande maggioranza della popolazione è a favore della liberazione della Palestina. È cresciuta sapendo, diciamo, quella che era la natura coloniale del progetto sionista, che qua in Italia ci troviamo a spiegare continuamente, ma c'è una consapevolezza molto più diffusa, che però, diciamo, non si è sempre tradotta in una lotta diffusa proprio a causa dei regimi che ci sono. Speriamo che questo ci sarà. Ci sono state anche in Egitto dei piccoli focolai di protesta, ma anche lì sappiamo che ovviamente il regime di Al-Sisi brutalmente reprime le manifestazioni. Però il caso del Marocco è emblematico, insomma, perché si sta vedendo, insomma, sempre più una lotta sempre più accesa anche in Marocco, e questo, diciamo, ci dà una speranza anche su quel fronte. Altri che volessero intervenire, che vogliono intervenire? Pure Franco, vuoi dire qualcosa? Ma sì, dico qualcosa anch'io, come visto che il compagno ne ha approfittato per... Aspetta un attimo. Ah, conclusioni, è presto. Che c'hai? No, scusate, io volevo un po', perché avrei avuto piacere che anche altri compagni che hanno una posizione molto diversa dalle nostre due, che non sono la stessa, adesso la dico, anche perché voglio chiarire alcune cose con i compagni, prendessero la parola, perché era uno spunto, soprattutto i compagni che pensano che il problema sia l'unità dei proletari palestinesi e il problema centrale, l'unità dei compagni palestinesi e israeliani, però voglio dire, era un'altra discussione. Allora io però vorrei chiarire alcune cose, perché noi, lo dico chiaramente, noi abbiamo invitato i compagni dei giovani palestinesi perché vorremmo stabilire un confronto e un dialogo con i compagni, e attraverso noi, e poi magari domani direttamente riusciremo a farne venire qualcuno in Italia, anche con i nostri compagni libanesi, che non è proprio un piccolo gruppo, dirige l'Unione, dirige egemonicamente e per vittoria congressuale, non perché l'ha dato Domine Dio, l'Unione Generale degli Studenti Libanesi, e sta cercando di costruire una filiera di organizzazioni marxiste rivoluzionarie nel Medio Oriente, nel mondo arabo. E allora vorrei dire alcune domande, in parte riflessioni, perché ci sono alcune cose che non capisco o non mi convincono. Allora, diciamo questo. Allora, voi hai parlato molto della resistenza, decida la resistenza. Naturalmente siamo d'accordo che su come fa la resistenza decide chi la fa. Però il punto è che la resistenza non è un qualcosa che sta in cielo, è fatta di uomini, posizioni politiche, interessi di classe, qualunque resistenza. E se è vero che, essendo qui in Italia, noi abbiamo il dovere di lottare in primo luogo, credo che lo facciamo, a parte questo dibattito, se ci siedi giù forse è meglio per il popolo, di farlo nel nostro paese, io credo che il dovere di un rivoluzionario in Palestina e palestinese è di lottare per una chiarezza proletaria rivoluzionaria nel proprio paese, anche se si vive in Italia. E allora la resistenza, guardate, voi siete giovani, appunto siete giovani palestinesi, non è per dire dare lezioni, a me, guardate, io sono sempre pensato che uno di 15 anni, se ha studiato bene, e anche se non ha visto le cose, può dare lezione a uno di 70, a me, quindi non è questo, non sto facendo discorso, ma rispetto agli esempi. Quando nel 93 ci fu gli accordi di Oslo, e noi dicemmo da subito, è un tradimento, ci fu detto, voi siete matti, voi vi mettete contro la resistenza palestinese. Perché fino a quel momento, per 40 anni, no, 30, vabbè, sono quello che si dice, 40, no, 40 anni, 35, per le tesi in Italia, dove il marxismo rivoluzionario ha subito dei colpi disastrosi alla fine degli anni 60, invece di crescere, si è minoritarizzato, la resistenza era la FAT. Non è che la resistenza è una. La resistenza sono forze diverse, non sarebbero forze diverse. La resistenza in Italia era la resistenza, ed è giusto che decidesse la resistenza. Ma poi c'era una battaglia politica. Bisognava ricostruire lo Stato borghese o bisognava andare verso il socialismo? Questo, per esempio, è la resistenza italiana. E ripeto, per fortuna a quell'epoca ci giunse in sostegno le posizioni di netta distanza dalla maggioranza della resistenza del fronte popolare e in parte del fronte democratico. Hamas manco esisteva. Chi era la resistenza allora? Noi dobbiamo prendere posizione. Ognuno di noi, non c'è un popolo unito, mai stato un popolo unito. La base dell'esistenza di una posizione di sinistra è la divisione del mondo in classe. Nell'ultimo paese più sfruttato del mondo, forse pure viene una battuta, il Bhutan, ci sono le classi. E se noi diciamo che siamo incondizionatamente a favore della resistenza, e che se avessimo avuto un gruppo in Gaza avrebbe partecipato al 7 ottobre, e che riconosciamo il 7 ottobre, con tutte poi sbavature che ci possono essere state, come un legittimo atto di resistenza, e quindi noi ci mettiamo la faccia nel dire che appoggiamo loro e appoggiamo gli UTI che mandano i missili su Israele. Però diciamo che questo non risolve il problema. Quando la sinistra ha detto tutti insieme e tutti uniti, è finita come in Iran. Che la sinistra, che forse era maggioranza nel movimento di ribellione contro lo Shah, è finita in galera morta. Perché a parte, lo dico con orgoglio, i nostri compagni, isolati anche da alcuni che si dicevano trotskisti nel mondo, chi conosce Sinistra Anticapitalista può sapere a chi mi riferisco, hanno lottato contro l'accettazione del comunismo in nome del fatto che siamo tutti uniti nella lotta contro lo Shah e contro l'imperialismo. E questo non può essere fatto solo alla fine, deve essere fatto da oggi. Quando ci fu nel 1970 quello che io considero il primo tradimento di Arafat in Giordania, il Fronte Popolare, il Fronte Democratico arrivarono quasi a spararsi con Al-Fatah per non accettare il compromesso. Noi eravamo dalla parte del Fronte Democratico. Non si può pensare, io credo, poi può darsi che io capisca male, perché proprio voglio discutere, non voglio dare lezioni. Certo, io esprimo la posizione nostra, ma non si può pensare che non ci siano queste contrapposizioni politiche e di classe all'interno di qualsiasi movimento. Per cui il compito è unire, siamo d'accordo, nella lotta militare, separare sul piano politico. Perché noi non vogliamo, fosse possibile, domani una Palestina capitalista con i lavoratori che sono disoccupati, che sono sfruttati come sono negli altri paesi arabi, anche quelli che nascono da lotte di liberazione. Perché l'Algeria non è così, non è nata da una grande lotta di liberazione. Cos'è stato l'FLN? Se parlavi male dell'FLN negli anni 50 sembravi un patriota francese, eppure hanno fatto quello che hanno fatto e lì i proletari sono sfruttati. Se non si dice da oggi, secondo me, non si è coerenti con una posizione, lo dico, scusate, io sono abituato, non si è coerenti con una posizione di sinistra, secondo. E anche qui voglio capire, perché può darsi che io mi sbagli, mi pare che ci sia un po' la posizione di pensare. Lì facciano quello che loro sono uniti, più uniti sono, io non posso dire A né B da fuori. Come se poi non si dicessero A e B tra loro. Perché oggi anche leggendo i giornali, forse quello non è d'accordo, forse quell'altro ha fatto una cosa, forse quello vuole fare l'accordo, persino in Hamas si dice che ci sono linee contrapposte. È logico, meno male, perché non c'è mica Dio che ci determina. Quindi, e poi lottare nei paesi imperialisti dove siamo. Giustissimo, giustissimo. Però non si può pensare che c'è solo una dicotomia in cui non è centrale la lotta nei popoli della regione. A un livello molto differente. I miei compagni argentini certamente sanno che se Trump saltasse, Milei salta. Ma non dicono noi facciamo la nostra lotta e cerchiamo di aspettare che in America lo buttino giù, anche se salutano le cose. Dicono cerchiamo di unirci con i compagni cileni, con i compagni peruviani, con i compagni brasiliani, quelli che tra l'altro in tanti paesi scendono in piazza, perché no? La Palestina è nel mio cuore, nel nostro cuore, la Palestina è il punto focale. Ma abbiamo avuto rivolte che non hanno vinto perché non c'era una direzione rivoluzionaria, almeno non hanno avuto vinto dal punto di vista socialista. Nepal, Sri Lanka, il Marocco oggi con le sue peculiarità. Madagascar, in Ecuador ci sono movimenti di massa. Certo, il proletariato è ancora marginale in molti di questi. È la generazione Z, no? Quindi, però questo è il problema. Il mondo per noi. Noi siamo patrioti palestinesi, non siamo nazionalisti palestinesi. Noi non siamo mai come... Cioè, noi siamo patrioti di un popolo oppresso, non nazionalisti, perché nessuna soluzione può essere nazionale. Per questo dico, mi pare, e ripeto, può darsi che sbaglio, che a parte quello che hai detto sul Marocco, ma che mi sembrava più puntato sulla solidarietà. Il problema è che si muovono le masse arabe, non possono muovere, ma abbiamo avuto le primavere arabe, anche lì voi siete forse giovani. Certo, c'erano confusione, eccetera, ma milioni di persone si sono mosse lì contro i regimi reazionari e purtroppo non hanno vinto. E bisogna dirlo, perché quando la Comune perse, i marxisti dicono la Comune è stata sconfitta, viva la Comune! Non bisogna dire no, ha vinto perché moralmente, sì, aveva vinto moralmente, ma era stata sconfitta e bisognava dirlo e tirare le lezioni anche. Marx disse perché non hanno subito occupato la Versailles, perché non hanno preso i soldi dalla Banca di Francia, perché non si sono subito collegati con la Comune di Lione, perché la critica è l'elemento fondamentale, è il sale di ogni rivoluzione. Se no ci troveremo domani a dire, magari a vedere, che l'uno si spara contro l'altro, che uno dice A, uno dice B e non capire più niente, perché la resistenza diventa un fatto. Ecco, io questo può darsi che, ripeto, è una questione di intendersi, ma credo che se fosse questa la vostra posizione, secondo me sarebbe sbagliato. E per questo che io sottolineo, ed è un elemento in cui nel dialogo con voi c'è anche un interesse, non mica nascondiamo, anche un interesse, perché vogliamo capire come può. Per questo i nostri compagni libanesi oggi stanno cercando di costruire partiti in tutti i paesi arabi. Certo, in Palestina c'è stata una situazione diversa perché c'è stata la lotta armata, il fronte popolare, i trotskisti che c'erano negli anni 30 sono dispersi, quelli che erano ebrei sono finiti tutti in Inghilterra, io alcuni li ho conosciuti in Inghilterra perché non reggevano. Quei pochi che c'erano, arabi prevalentemente, hanno dato un po' di continuità, ma poi si è sfilacciata. Va bene, abbiamo avuto una sconfitta e purtroppo ci dispiace di non essere presenti oggi, a differenza degli anni 30 e 40 in Palestina, ma cerchiamo di costruire questo, perché la rivoluzione, tra l'altro, permettetemi di dire, il popolo arabo è un popolo. Noi siamo per la Palestina araba, ma non esiste una nazione arabo-palestinese, secondo noi, distinta dal resto del popolo arabo. C'è un popolo arabo diviso con il righello dagli imperialisti, e questa cosa va rovesciata, perché se non si rovescia il risultato della prima guerra mondiale Sykes-Picot e non si ricostruisce un terreno di unità araba, come del resto era nei sentimenti arabi all'epoca del cosiddetto socialismo arabo, poi ha fatto schifo ed è chiaro che poi sono venuti o regimi democratico borghesi o regimi militari o regimi clericali e via dicendo, perché il disastri del centro-sinistra tra virgolette portano sempre alla vittoria della destra, ma questo oggi è un dato fondamentale. La Giordania che stato è? L'hanno fatto con righello, se vedete il primo accordo Sykes-Picot era pure diverso. Poi si sono messi, no, ma è meglio che la facciamo un po' più in alto, no, la cosa. E quindi questo va, e questo è possibile se voi naturalmente insieme lottate qui in Italia contro il capitalismo, contro le sue manifestazioni, tutto quello che hai detto io sono assolutamente d'accordo. Ma se nel contempo vi ponete come giovani arabi che pure vivono in questo paese, di aiutare lo sviluppo di una prospettiva. So che alcuni di voi, tra l'altro, non sono, nemmeno sono magari libanesi o di altri paesi, non credo che tutti siate solo figli di palestinesi o qualcuno nato in Palestina. Credo che debba essere. Per noi la risposta è un impegno in un internazionale, ma questo credo che sia una cosa importante. E non cedere, io credo, alla mitologia che la resistenza è tutta unita, perché la storia l'ha dimostrato che non è stata unita per niente, neanche quella palestinese, e viva Dio, meno male, se no tutti avrebbero accettato la posizione del grande Arafat che firmava gli accordi di Oslo. Scusate, sono stato molto chiaro, ma è il modo con cui noi discutiamo, perché se no siamo tutti amici senza problemi e non non cogliamo il punto delle posizioni, delle proposte e anche di quello che dobbiamo fare. Grazie Franco, se ci sono altri compagni che hanno intenzione di intervenire, se no a questo punto chiudiamo. Io direi, non so se il compagno vuole rispondere, non so, se vuoi, è il tuo diritto, ma ci mancherebbe, ma che devo, poi magari richiudo non, io magari sulle questioni generali, ecco. Non voglio dilungarmi troppo, anche perché non vorrei fosse solo, diciamo, una botta e risposta tra due, anzi se ci sono altri interventi, altre riflessioni, domande, vorrei, critiche, qualsiasi. Anch'io vorrei. Se no, devo giusto fare due punti sulla questione dell'unità della resistenza. Certo che in Palestina ci sono diversi partiti, ci sono diverse fazioni politiche. Ho parlato, insomma, di come dopo il 7 ottobre comunque la resistenza si è unita nel rivendicarne la legittimità tra le diverse fazioni. Ovviamente non è la resistenza un blocco monolitico omogeneo, come ogni società ci sono diverse realtà politiche, diverse posizioni, ma in Palestina non c'è modo in questo momento di articolare uno sviluppo interno della politica che presupponga, se non sul presupposto, della fine del colonialismo sionista. Cioè, è questo il punto fondamentale. Per quanto ci siano diverse fazioni, ci sono fazioni islamiche, fazioni laiche, fazioni marxiste, fazioni non marxiste, qualsiasi tipo di prospettiva politica di liberazione, cioè qualsiasi tipo di prospettiva politica deve essere basata su una liberazione della Palestina. Quando l'OLP, insomma Arafat, hanno accettato gli accordi di Oslo, hanno abdicato al loro ruolo di resistenza. Questa è la nostra lettura, che pure negli anni precedenti hanno lottato, nel momento in cui sono scesi a questo compromesso, riducendosi poi di fatto, insomma, con quella che è l'eredità della NP, a un cane da guardia dell'entità sionista, hanno rinunciato al concetto stesso della resistenza e ad essere una fazione della resistenza, e non lo sono più. Per cui, diciamo, il punto che volevo fare era semplicemente questo, che lo sviluppo poi politico di quella che sarà una Palestina libera si vedrà, sarà deciso dai palestinesi. Prima di quel momento le diverse fazioni della resistenza, pure nella loro differenza, e il punto noi da qua non è sostenere una o l'altra, noi come giovani palestinesi non siamo rappresentanti di un partito o di una fazione della resistenza, ma è la continuare, la resistenza continuerà in Palestina secondo i suoi sviluppi interni, noi da qua diamo supporto alla lotta di liberazione, secondo una nostra visione di quella che è ovviamente il sistema oppressivo in Palestina, per cui ovviamente non è l'instaurazione di un regime capitalista collaborazionista, questo è molto chiaro, però la forma di governo che ci sarà in Palestina non è il nostro ruolo oggi definirla. Ecco. No, qua, scusa... vieni qua, vieni qua, perché se no sei vecchio, ma ti devi alzare, E presentati. Una domandina anche stupida, cioè niente di... Sì. In questa fase una parola d'ordine come l'assemblea costituente palestinese. Avvicinati. Ripeto. Dai, fammi parlare. Allora, in questa fase... Hai detto che ci sono vari settori, varie componenti, eccetera, ma lo sbocco finale, ancora prima di sconfiggere, distruggere, tutto quello che vogliamo dire, ma politicamente la parola d'ordine dell'Assemblea Costituente palestinese non la lancia nessuno? Nessuno parla di mettersi a un tavolo e cominciare a discutere di questo, perché se un domani si vince... cosa che tutti speriamo, non sarebbe bene cominciare a discutere e a mettere intorno a un tavolo tutti coloro che sono le componenti di questa resistenza? Perché solo così si può arrivare a una vostra, come dire, indipendenza politica anche da tutte le altre tendenze, da tutte le altre pressioni che avvengono a livello anche internazionale. A maggior ragione se poi ci si definisce internazionalisti. C'era forse la mia compagna che voleva intervenire. Allora, io cerco di dare una risposta a quello che si diceva. Magari alzati un po' perché te lo stai... Mi viene male alla schiena. Allora, cerco di dare un po' una... cioè, ribadendo anche le posizioni che portava il mio compagno, tiro anche un po' in mezzo quella che è un po' la mia discendenza. Io sono tunisina, visto che si parlava prima anche delle primavere arabe. Io credo che parole d'ordine che siano afferenti a come dire, un orizzonte politico che condividiamo, no? Anche come fronte antiimperialista, come fronte anticapitalista, siano parole che in Palestina vengano ben più che masticate da molto tempo. Credo che delle volte ci siano anche delle scelte di non utilizzare o utilizzare delle parole che, come dire, per il nostro anche orizzonte epistemologico proprio qui in Occidente non sono direttamente comprensibili. Questo sia che, come dire, ci sia una resistenza di tipo più islamico, o una resistenza di tipo più socialista o più democratica, insomma. Se capisco bene quello che si intendeva della domanda nel voler utilizzare una parola come costituente, no, o anche quello che riportava Franco del dire l'unione non deve essere un punto di arrivo, deve essere un punto in costruzione e in partenza dall'inizio. Ricordiamoci per esempio che Marwan Barghouti è prigioniero palestinese da moltissimo tempo. Ricordiamoci che comunque anche le persone che vengono scelte per essere fatte prigioniere vengono scelte con come dire, una scelta oculata, proprio per smontare, spezzare la possibilità di costituire una unità che, come dire, possa andare a rappresentare quella che da qua noi possiamo immaginare come unità. Perché il fatto che la resistenza abbia rivendicato il 7 ottobre comunque non era una cosa scontata. Cioè non era una cosa scontata che avvenisse, no? Il fatto che anche di fronte a dei giochi diplomatici, degli omicidi, poi di chi si va a sedere al tavolo di trattativa, cioè non sono delle cose che accadono casualmente, sono fatte apposta per andare a distruggere anche la possibilità che si costituisca una possibilità di dialogo tale per cui si possa immaginare un fronte unito, dove magari esistono anche delle fazioni che si oppongono tra di loro per quella che è l'idea di liberazione. Certo è che a 2 anni dal 7 ottobre 2023, a ormai 78 anni dall'inizio formale dell'occupazione con la Nakba, diciamo che le priorità che si vanno a porre sono anche un po' diverse da quelle che si potevano discutere nel 67 o negli anni 90. Il prezzo di sangue che è stato pagato in questi 2 anni è veramente altissimo, per cui anche quando andiamo a parlare dell'accordo di pace e quello che riportava Andrea, l'unione fondamentale che esiste tra il popolo e la resistenza, poi parliamo, cioè, diciamo qui in Italia si tende, non intendo in questo contesto, però in Italia si tende un pochino a sovrapporre resistenza con Hamas, che, sottolineo qui in Italia e non qua perché capisco bene che ci sia una comprensione molto più complessa e anzi importante è stato importante sentir parlare di una pluralità di resistenza, una pluralità del mondo arabo, perché non sono cose che vengono comprese in modo scontato. C'è comunque uno sguardo estremamente orientalista anche da parte di chi, come dire, si dichiara solidale in una maniera concreta, così come noi italiani, arabi in diaspora e palestinesi da qua scegliamo di lottare. Diciamo, io parto anche un aspetto, per esempio, di quello che è accaduto in Tunisia dopo il 2011. Le condizioni materiali del mondo cosiddetto postcoloniale o di una Palestina post-Oslo sono delle condizioni che sono studiate e costruite apposta perché non si possa costruire alcun tipo di unità tra chi un'unità di una costruzione futura la può trovare. E per la Palestina, come dire, le priorità sono altre. Cioè, quello che diceva il compagno in questo momento, siamo ad un punto in cui la liberazione è messa talmente tanto in discussione, anche dopo gli accordi di Abramo, la normalizzazione ha fatto sì che parlare 2 anni fa di Palestina libera dal fiume al mare era qualcosa il cui significato per molti a livello di narrazione generale era completamente dimenticato. Quindi la posta in gioco è molto più alta ora. E come dire, il terreno su cui fanno strategia le fazioni di resistenza, ed è anche bene, come dire, anche nel linguaggio che scegliamo di utilizzare, no, parlare di fazioni di resistenza, posto che a Gaza è vero che esiste una supremazia di Hamas, però in Cisgiordania non esiste. È, come dire, per quanto credo che sia importante portare avanti la mobilitazione qui anche sui presupposti politici che ci diamo, in cui crediamo, che sono quelli che costruiamo fino ad oggi, nel senso, mio padre è un marxista panarabista, come dire, cioè, l'avanzamento politico esiste, però c'è anche un terreno di lotta che non è prettamente lo stesso. Anche solo per come lo possiamo interpretare qui. Poi ben venga che esistano compagni in Libano che vogliano stimolare la creazione di partiti. Credo che nella storia della lotta palestinese vediamo anche quanto sia stato importante il ruolo della diaspora, che vive anche una condizione che è quella dell'esilio, che chiaramente ha porta un afflato nella lotta che altre diaspore, per esempio, non hanno potuto per forza costruire. Quindi, insomma, spero di aver dato una risposta, cioè non ha di boss, una risposta. Vado alle conclusioni, credo, anche perché già metà del pubblico, se non la maggioranza, ha abbandonato, e quindi per evitare ulteriori defezioni chiudo in poco. Allora, molto interessante l'intervento della compagna. Tra l'altro, devo dire, è un peccato che sia dovuto andare, perché abita fuori Milano, semplicemente il nostro compagno tunisino del nostro partito, che tra l'altro, ecco, per dire anche lì le contraddizioni, lui era un militante del Partito del Lavoro tunisino, che è stato espulso come trotskista, poi è dovuto venire a cercare lavoro in Italia, prima a Palermo e 2 mesi che a Milano, perché a Palermo non c'è riuscito, ma appunto l'hanno espulso bene perché era veramente trotskista, e quindi appena arrivato a Palermo è venuto nel nostro partito, adesso è qui nella sezione di Milano. E quindi poteva essere interessante uno che tra l'altro ha una certa età, quindi ha fatto le lotte nella sinistra del movimento del 2011. Vedi, il punto è stato molto interessante, secondo me, quello che hai detto in particolare. Il punto che noi sosteniamo, ora può essere contestato, ma è questo. Noi pensiamo, perché questo non c'è un prima per noi, non c'è un prima un dopo, né per i nostri compagni libanesi, che la situazione è tale, il sionismo è così radicato e intrecciato con tutti gli imperialismi, forse anche per brevità non ho potuto dilungare, che è difficile una soluzione, cioè, no, dico di più, che è impossibile una soluzione capitalista in Palestina. Perché il capitalismo, cioè, mentre è stata possibile, io ho cercato di fare questo, ritorno un po', ma per sottolineare quale voleva essere il mio pensiero, che poi è il nostro. Ha sorpreso tanti, anche me a un certo punto all'inizio la cosa del Sudafrica, però lì ti ripeto, lì c'era la possibilità di dare, non la liberazione dei neri, perché malgrado tutto restano oppressi come classe in particolare, però di dare degli spazi di libertà nazionale alle varie nazionali, perché poi mica c'era uno, c'era Zulu, Xhosa, eccetera, eccetera, del Sudafrica, perché poteva essere fatto una trasformazione capitalistica dello Stato sudafricano, non c'è più lo Stato. In Palestina, per quello che è il ruolo mondiale, lo dico proprio io, del sionismo, e l'intreccio e il sostegno con tutti gli imperialismi, per questo ho sottolineato, certo prima con quello americano, ma anche con i russi, eccetera, eccetera, non c'è questa possibilità, quindi non c'è per noi un prima o un dopo, a parte il fatto che noi, è la nostra tradizione, quella di Lenin, che quando si diceva in Russia si può fare la rivoluzione democratica, la sua divisione, voi siete anche studenti, quindi avrete, non so di che facoltà, magari di facoltà più tecniche, insomma, ma nella storia la divisione tra i bolscevichi e i menscevichi, soprattutto a partire da un certo tempo, i menscevichi dicevano si può fare la Repubblica Democratica e poi ci stiamo un po' e poi faremo domani il socialismo. E Lenin dice no, noi vogliamo fare il socialismo subito. Quindi anche fosse possibile per noi il marxismo, come dai tempi di Marx, e fare il socialismo appena possibile. E il programma dei comunisti in Germania nel 1849, mi pare che fosse, no? Che diceva noi, anche se la Germania non è la Francia, quindi il comunismo è un percorso difficile, vogliamo che gli operai prendano il potere e vadano avanti verso il comunismo. Non ci basta, anche se lì era possibile, la semplice rivoluzione borghese, perché dobbiamo, questo quando dico noi siamo patrioti ma mai nazionalisti, perché siamo sempre per il socialismo internazionale, questo secondo me è quello che caratterizza, secondo noi, non secondo me, che conterebbe molto poco, caratterizza un comunista. Ma per la Palestina è proprio una impossibilità, perché nessuno ti potrà accordare, questo ci posso mettere la mano sul fuoco, ma credo sia per tutti, che domani ti fanno una Palestina capitalista con liberale. E come la fanno? Con una maggioranza di... No, non esiste. Il sionismo è esclusionista del popolo arabo di Palestina. Per cui o si fa col socialismo o non c'è. E noi dobbiamo essere chiari su questo. E a volte anche quelli che non pagano, certo quelli che hanno il fucile hanno diritto, ma tante volte quelli che hanno il fucile hanno sbagliato. Non so chi di voi ha visto il film di Ken, era di Ken Loach, il rivoluzionario irlandese. Il vento che ha carezzato. No, non quello di Ken Loach, quello su Collins, Michael Collins. Chi ha tradito non è stata l'ala intellettuale della dirigenza, è stata l'ala, tradito, si è adattato, perché tradito, un po' esagerato, è l'ala più militare. Quindi noi dobbiamo stare attenti a non credere chi ha il fucile ha ragione sull'intellettuale, però dovremmo dire la rivoluzione bolscevica nel cestino, perché quelli che facevano le insurrezioni erano i social rivoluzionari e gli anarchici, scusate se cito un esempio un po' strano, che prendevano i fucili, i bolscevichi non lo prendevano, salvo quando c'era le squadre di autodifesa e quando c'era la rivoluzione la rivolta di massa, questo sì. Ma Lenin se ne stava a Zurigo, però aveva ragione Lenin. Anche se non... E allora, quindi il punto fondamentale è capire che noi, secondo noi, dobbiamo dire, per liberare la Palestina è necessaria una prospettiva socialista. e questa prospettiva socialista non può essere in primo luogo dal Medio Oriente, non perché diciamo non dobbiamo farla in Italia. È chiaro che se potessimo domani prendere il potere negli Stati Uniti, la classe operaia, vabbè, saremmo molto avvantaggiati, anche se qualcun altro si troverebbe, i cinesi e i russi, a dire ti difendo io sionismo. Ma diciamo, però è i popoli che hanno dimostrato delle capacità rivoluzionarie enormi. Enormi. Se vedete la storia, nel 59, guarda, anche questo non voglio dilungare, nel 59 ci fu una rivolta militare che portò il re, addirittura lo trascinarono per strada dopo averlo ammazzato, dietro acchiappato una macchina. E c'era un ruolo fortissimo del Partito Comunista in Iraq, Baghdad. E quando ci fu la guerra del Golfo, un personaggio che aveva varie conoscenze riuscì a fare un'intervista con l'ultimo sopravvissuto, perché era giovane, non è che gli altri avevano ammazzato, i battisti avevano ammazzato centinaia di migliaia di, o perlomeno 10 migliaia di comunisti e via dicendo. Ma ad ogni modo, uno del Partito Comunista iracheno. E dice, a un certo punto, nel 59, noi eravamo tali, la stragrande maggioranza dei sciiti era con noi, anche perché noi difendevamo contro il vecchio predominio sunnita. Però anche una massa di sunniti, i turcomanni erano con noi, i curdi sono con noi, l'esercito metà con noi, possiamo prendere il potere. Però siccome erano stalinisti, a chi l'ha chiesto riporta questo, abbiamo sentito Mosca. E Mosca ha detto no, perché non si fa così, questo... Non è noi siamo per le rivoluzioni democratiche, quindi lasciate il potere al generale progressista, che dopo 6 mesi un altro generale progressista fece fuori, sempre progressista, e Nasseriano, e poi ammazzò tutti i dirigenti, cioè i comunisti, eccetera. Allora ci sono qua, ma la popolazione irachena poteva fare una rivoluzione socialista, ci sono delle tradizioni enormi in Sudan, in Kosovo. Queste, certo, sono state sconfitte, però possono essere riprese, però a condizione anche noi di non cadere nell'unitarismo, che non vuol dire che non appoggiamo. Io l'ho detto, non è che tutti hanno preso questa posizione, eh? Noi appoggiamo il 7 ottobre, e se avessimo avuto un gruppo là, avrebbe partecipato all'attacco per quello che ha ottenuto, perché come dici tu ha rotto gli accordi di Abramo, o come hai detto tu ha tolto gli accordi di Abramo, perché anche se poi adesso li ripropongono nella nuova versione, ha creato uno sputtanamento, scusate il termine, non è molto scientifico, diciamo uno svergognamento mondiale del sionismo. Oggi c'è masse di milioni, decine di milioni di persone che pensano, che non lo pensavano prima, che Israele è qualcosa stile nazismo. Tutto questo è fondamentale, quindi l'avremo appoggiato. Però non è la soluzione. E la soluzione per noi è dire, cerchiamo di fare in modo che la grande capacità rivoluzionaria dei popoli arabi, come di altri popoli oppressi, non c'è nessun popolo superiore agli altri per istinto, questo, siamo tutti uomini uguali, bianchi, neri, gialli, verdi, blu, è solo la situazione sociale che crea la radicalizzazione e la... Ma il popolare, proprio perché sono ancora oppressi, come dicevi tu, riportavi tu, dall'imperialismo, nella lotta antiimperialismo possono esprimere molto. Però per non arrivare alla situazione che è già successo, che prima c'è il socialismo nasseriano del Baath, poi questo diventa regimi corrotti e reazionari capitalisti, riprivatizzano tutto, te massacrano i comunisti, tu devi avere la chiarezza che la tua proposta, secondo noi, che la tua proposta socialista è per oggi. Naturalmente non lo poni come un ultimatum, te l'ho detto, noi avremmo per... E oggi qualsiasi azione di resistenza decida la maggioranza, che non abbia carattere di follia, ma non è questo il punto evidentemente, o di capitolazione, noi ci stiamo. Ci sia quel genere, però... Stando attenti, perché l'ultima cosa, che in realtà era un dettaglio, in realtà avrei dovuto concludere su quello che ha detto adesso, però vi dico la cosa, Barghouti dice, e Sadat però anche tengono, a me devo dire, spero che librino Sadat, perché voglio sentire cosa dice della linea del fronte. Noi non siamo stati del fronte popolare, siamo stati vicini alle posizioni del fronte popolare, anche qui in Italia, l'UDAP, chi conosce Sciucri, addirittura in Rifondazione nella sua sezione era un sostenitore della nostra componente trotskista, e quindi grande onore, però non siamo, perché siamo appunto non siamo esattamente. Però Barghuti, tu hai detto, ha lasciato la resistenza, Arafat, vuol dire, Barghuti era a favore dell'accordo di Oslo, eh? Barghuti era l'ala sinistra di Fondazione, lo chiamavano comunista perché era molto amico dei russi, però lui si prese dicendo effettivamente questa posizione di Barghuti, cioè, l'abbiamo studiato tante, anche perché abbiamo visto la posizione di Barghuti quando era libero dopo Oslo, fu di dire, siccome è crollato il muro e non abbiamo più la possibilità dell'appoggio dell'URSS, in questo momento io sono favorevole a questi accordi. Non è che è macchiato a vita, perché non voglio dire che non... Se Al-Fatah rientra, o settori di Al-Fatah, credo già siano rientrati. A me va benissimo sulla lotta. Però stiamo attenti, perché... Ecco, non abbiamo nessun faro preciso, se non sulle posizioni concrete oggi, e non dobbiamo illuderci di qualcuno che dà un'unità, se non sappiamo su quale base vuole dare un'unità. Se mi torna Barghuti e mi dice io non voglio questi accordi e voglio che riprenda una lotta di massa, magari non militare perché adesso non abbiamo le condizioni, non è che noi siamo militaristi, una lotta di massa, una nuova intifada, quello che sia, tipo quella del 2000, a me va bene, ma se Barghuti viene per dire troviamo un compromesso tra tutti, io non lo so, perché lui non può parlare, io voglio che sia liberato, come voglio che sia liberato Sadat, per sentire se lui invece dice no, io voglio ancora, come il fronte popolare fino all'altro giorno, la lotta fino a che tutta la Palestina non sia liberata. E queste sono cose che si intendono. In modo, ripeto, e concludo veramente, avrei dovuto dire questo, chiedo scusa dello sbaglio, prima, e concludere sull'altro elemento, lo ripeto, per noi la questione del socialismo non è un di più, in questo caso, in altri casi sì, perché dice, poi puoi raggiungere, come in Algeria, non hanno fatto il socialismo eppure hanno raggiunto l'indipendenza, hanno fatto un progressismo che poi è diventato una schifezza dopo, lo sappiamo, ma in Palestina per noi questo non esiste, non esiste, perché proprio il mostro sionista è talmente, no, non è la questione del complotto ebraico, viva Dio, niente antisemitismo né niente, tra l'altro ci sono migliaia di ebrei che si manifestano per la Palestina in tutto il mondo, quindi figurarsi, ma il complotto sionista, o meglio l'incidenza sionista nei gangli del capitalismo, non è solo quella del governo di Tel Aviv, è la lobby sionista negli Stati Uniti, è in Inghilterra, è la finanza internazionale, e allora quella lì la batti solo se dici andiamo verso il socialismo, se no non ci sarà mai una Palestina, se non un mini stato oppresso, questo almeno secondo noi, e questo vorremmo convincere i compagni di sinistra che è la posizione giusta, pur nel rispetto dell'unità di lotta, perché siamo sempre per il fronte unico ovunque, siamo in Italia, per dire con la CGIL, siamo anzi CGIL, molti di noi, alcuni sì, alcuni no, siamo sempre per il fronte unico di lotta, e siamo invece nettamente contro il dire siamo tutti sulle stesse posizioni, perché gli interessi di classe esistono, ripeto, era una battuta, persino nel Bhutan ci sono le classi, e se domani ci fosse una rivoluzione bhutaniana sarebbe, bisognerebbe stare attenti a non servire una parte della borghesia contro l'altra, o feudale, non lo so com'è, non ho studiato il Bhutan. Grazie, scusate. Va compagno. Bene, allora su questo abbiamo sul Bhutan finito, possiamo concludere la nostra serata, buonanotte a tutti e grazie per la partecipazione. Per il modo, con voi noi vorremmo continuare la discussione.